Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buona Pasqua! Buongiorno e buona Pasqua. Oggi è una giornata speciale. Che belle le campane. Fratelli e amici italiani. Vicini e lontani. Italiani, no, e cani anche. Amici cani, amici animali. Amici animali. Amici animali, natura. Siate felici anche oggi. Oggi è il giorno della risurrezione. Giorno importantissimo. E ne parleremo sotto tanti punti di vista. Ma uno può risorgere anche essendo più felice. Può rinascere a nuova vita essendo più felice. Assolutamente sì. Chiedimi se sono felice. Dice, no, questo è il punto della trasmissione. Abbiamo letto Focus, no, le ultime volte, 11 punti chiave, no, letti da Focus, che possono rendere felici noi e il nostro cane. Andate a riascoltare le puntate di podcast sui nostri approfondimenti. Però, abbiamo preso un libro che ci piace tantissimo. Come si chiama? Le cose più importanti che il mio cane mi ha insegnato. Di? Cinzia L. Copland, ecco, bellissimo, della Tea. Molto libro, molto libro, e ve lo consegniamo. Siamo felici, oggi è poi c'è questa musica meravigliosa, che sono i Rondò Veneziano. Io li amo la follia, andrei a vederlo un concerto di Rondò Veneziano. Gruppo rock, i Rondò Veneziano. Andiamo avanti con... Allora, vi leggo la prima pagina di questo libro. La gioia va condivisa. Ecco, a proposito di felicità, cosa dice? Un cane ci ricorda che la felicità dipende dal nostro atteggiamento, non dalle circostanze. Abbraccia pienamente ogni momento della sua giornata, immaginando che qualcosa di meraviglioso stia sempre per accadere. Fa festa per ciò che è giusto e buono nel mondo, trascurando ogni difetto. Il suo entusiasmo, anche per l'evento apparentemente più insignificante, è contagioso. C'è qualcuno alla porta. È il momento della passeggiata. Ho trovato la mia palla sotto il tavolo. Un cane è un punto esclamativo vivente. Ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma poi guarda, chi ha un Labrador, per esempio, i Labrador sono fra quei cani, perché poi ce ne sono anche altri, che sono felici per ogni cosa. Cioè, tipo, cade una foglia, che se ne accorge, quello scodinzola, sta sdraiato, scodinzola, perché è avvenuto qualcosa. Quindi io sono già gioioso per questo. Sono veramente degli insegnamenti viventi. Beh, un cane un punto esclamativo vivente è veramente meraviglioso. No, poi questa aspettativa, come posso dire, questa è la stessa gioia che vedi nei bambini, no? Cioè, mi aspetto che cada qualcosa, è scaduto questo, che come quando purtroppo... il bambino ti dice albero, cane, e tu, per dirti, c'è questa cosa qua, gioiscine, no? Che poi purtroppo crescendo perdiamo questa cosa qua. È un pochino la perdiamo perché ci mettiamo di mezzo troppi pensieri, no? Cioè, il genitore dice, come ci diceva Igor, no, l'altro giorno, sì, dice si ah baldi. Sì, albero, quello è un faggio, no? Cioè, ci mette la ragione. Il bambino vuole dirci invece sorprenditi, c'è un albero là. E poi è bella questa cosa di la felicità è un atteggiamento, non è qualcosa di condizionato dalle circostanze. Cioè, se noi siamo bravi, ci portiamo questo atteggiamento dentro, ed è per questo che siamo felici. Come diceva Guidalberto Bormolini, la felicità è una scelta. Altra frase fantastica di questo libro: la felicità è una scelta, veramente, a proposito, sì, perché io poi arrivo lenta, eh? Bisogna scegliere di essere felici. E fra l'altro il Dalai Lama dice: lo scopo della vita è essere felici per tutti. Tutti gli esseri viventi hanno tutti questo. Tutti meritano. Sai cosa? Anche quando noi ci relazioniamo con gli altri, dobbiamo stare attenti. I cani ci insegnano anche questo. Qualsiasi cosa una persona faccia, la fa perché vuole essere più felice. Anche quando il tuo vicino di ufficio ti fa lo sgambetto, ti fa le cose, lui è un tentativo maldestro di rendersi felice. Certo. Un'altra frase bellissima è: la questione non è riuscire a prendersi la coda, ma quanto sia divertente darle la caccia. È bellissimo. Ma ti ricordi quella poesia bellissima che si chiama Ithaca? No. Ithaca racconta del viaggio di Ulisse, dice: guarda, sì, ma pensavo quella Ithaca. Quella poesia, sì. Perché dice: non importa, cioè, il punto è, sì, arriva ad Ithaca, ma il punto è, sono tutti i tesori che tu raccoglierai durante il viaggio, tutti gli insegnamenti che tu ti porterai dietro. Amore, è stato detto in mille modi, anche il famoso sabato del villaggio e tutto ciò che sta prima della preparazione della grande festa. In un certo qual modo, è tutto quello che tu fai prima di arrivare alla festa, quando arrivi alla festa. È questo atteggiamento mentale, sì, dovrebbe essere. ogni giorno, sabato. Ma tra l'altro sai cosa dice il Buddha a proposito di questa frase? No. Dice non esiste una via per la felicità, la felicità è la via. È la via, sì, dopo mi è venuta in mente. Accogli chi ami con entusiasmo, che sia stato via per 10 minuti o per 10 mesi. Beh, in questo i cani sono favolosi. Sono favolosi. Esci un attimo a prendere delle cose giù, vado a prendere il pane giù, torni in casa, guisco di sì, come se non ti vedesse da anni, uguale. E purtroppo noi non lo facciamo più, anzi, quando magari uno entra in casa e gli dica: ah sì, ciao, sei arrivato, grazie, ma arrivederci. Forse neanche, uno è distratto dalle proprie cose. Invece coglie, ecco, essere presenti. Eckhart Tolle, maestro di meditazione, che dice: gli animali sono guardiani dell'essere, sono guardiani del qui ora, sono quelli che ti richiamano a vivere il presente, che è l'unico vero momento che tu possa vivere. Noi speriamo che oggi, che visto che la nostra puntata di Chiedimi se sono felice è nella domenica di Pasqua anche, vi stiamo dicendo tutte queste cose perché magari uno le ha proprio sotto gli occhi, sotto il naso, e non ci pensa più, no? Sono le cose più banali che uno le perde di vista nella corsa frenetica quotidiana. Invece a volte queste piccole cose, già solo dire ah già è vero, già ti fa stare un pochino meglio. No, ma il punto meglio è esattamente quello: se uno vuole essere felice deve tornare a poter essere attento alle cose semplici, il rumore del vento fra le foglie, la pioggia che cade, il rumore della pioggia, il cinguettio degli uccellini. Queste, se ci pensiamo, quando noi siamo felici riusciamo a vibrare con queste cose qui. E quindi è fare attenzione, ripulire la mente dai pensieri, essere qui e ora, la cosa che conta di più. Ora, prima di lasciarvi al traffico, vi chiudo con questa massima che è la mia in assoluto, faccio tesoro tutti i giorni, che è: ridi di te stesso, tutti abbiamo giornate storte. Grande umorismo del cane. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. No, non si litiga il giorno di Pasqua, insomma. Mi ha tirato la sciarpa bellissima che ti ho regalato io. Ma che mi hai regalato te? Ma cosa mentalmente te la volevo regalare io, che ah, c'entra? Sì, l'hai però pagata l'ho pagata tu. Io, to cash. Ma chi no. A parte che l'ho vista io, sono io che ti vesto da quando sei un figo in giro perché ti vesto io. Sì, sì, certo. Ecco, giusto. Parliamo di cose serie, che oggi è la puntata di Pasqua. Ma è seria sta roba qui? Serissima. Io che barba, che noia, che no, noia. Che barba. È serissima, capisci? Sì, allora, sì. Volevo presentarvi, allora vi volevo parlare di questo In viaggio con Rufus. Adesso capirete meglio perché. Perché c'è questo Arnaldo De Pietri che da 3 anni racconta che da 3 anni sgambetta al mio fianco un Jack Russell a zampa lunga e che dice di chiamarsi Rufus. È una simpatica canaglia, iperattivo, sospetto sia alimentato da una fonte di energia nucleare, è machiavellico quando si tratta di rubacchiare il cibo dal mio piatto. Rufus parla fluentemente 3 lingue e anche se soltanto io riesco a sentirlo, mi batte a scacchi solo una volta su 3. È un corteggiatore seriale di belle ragazze. Arnaldo! Eccomi! Arnaldo, buongiorno! Hai capito Rufus? È terribile, eh? Senti, a me ha colpito molto questo tuo blog dove parli In viaggio con Rufus. Tu stai organizzando un viaggio fantastico che va da Mantova a Las Palmas? Esattamente, Canarie. Alle Canarie, che sono più di 3.000 passa chilometri che farete in macchina tu e Rufus, giusto? 3.500 chilometri, di cui 2.500 in auto. Bellissimo, anche io avevo un sogno simile e tra l'altro volevo farlo con una Volvo molto tempo fa, cioè adesso oggi casualmente ho la Volvo ma il viaggio non l'ho ancora fatto. Ma con chi lo vuoi fare tu, scusa? Da solo col mio cane io avrò la Volvo. Ma figurati, ma tu sei fidanzato, Arnaldo? Guarda Peter, che Peter, faccio bene? Ma andatevela a prendere in sacco. Allora, Arnaldo, scusami, tu sei fidanzato? In questo momento no. Ecco, vedi, è single, per quello ho organizzato il viaggio con Rufus. Sì, tu devi organizzare il viaggio con Jean-Pierre, Morfini, Euphoria e Rosita. Ecco, Arnaldo, tu invece vai dritto per la tua strada, non farti incastrare, dritto all'obiettivo, da solo col tuo cane, 3.500 chilometri. Bellissimo, bellissimo. Ce l'ha fatto. Ma quanto pensi di stare via, Arnaldo? Allora, molto è legato al numero di tappe che faremo. Che farete? Io sono ormai alla versione numero 200 del programma e ogni volta lo cambio. L'itinerario. Sì, i posti da vedere sono tantissimi. Seguiamo fedelmente quella che è una mappatura delle località dove esistono strutture recettive per cani, evidentemente. Però sono molte e quindi diciamo che a parte la sosta a Barcellona per il resto improvviseremo. Ma come ti è venuto in mente? È un sogno che ho da 30 anni da quando ho letto un libro in viaggio con Charlie di Steinbeck. E sì, lui, lo scrittore, fa in età avanzata, e io sognavo di farlo quando ero giovanissimo, mi trovo a farlo alle soglie dei 48 anni. E vabbè, sei sempre giovanissimo. Sì, abbastanza, insomma, sì. Sì, sì. No, tra l'altro, guarda, un viaggio del genere, che tu hai stimato quanto debba durare? Dai 18-22 giorni. 18-22 giorni, vedi? Sì. Allora, mi sa molto di ritiro dal mondo, mi sa molto di spartiacque tra una vita precedente e una che deve ancora venire, anche perché leggo dalle tue parole che questo è un po' rispecchia il desiderio di amicizia, libertà, avventura, il richiamo a lasciare l'ormeggio, no? Quindi sembra rinascere a nuova vita dopo. Sì, è un rimettersi in gioco, è una sorta di rinascita. Io ho lavorato per quasi 30 anni a testa bassa, in un settore molto competitivo, sì. E è venuto il momento in cui voglio restituire alla mia vita appunto alcuni valori. Grandioso, grandioso. Anche l'esplorazione, in qualche modo l'avventura calcolata, ma bravo. Bellissimo. E voglio farlo col mio cane. Ma è la prima volta che tu hai un cane? Sì, è la prima volta, ce l'ho da 3 anni, mi è stata data questa opportunità che evidentemente ho colto al volo, e da lì in realtà sono 3 anni che ragiono e progetto sempre con crescente entusiasmo e concretezza il viaggio. Come ti è cambiata la vita da quando c'è Rufus? Radicalmente. Innanzitutto da una vita dove il criterio di base ero io, è diventata una vita dove il criterio di base siamo noi. Ah, ecco, bellissimo, vedi. E quindi si dipende sempre da qualcuno. Anche da un cagnolino, e questo in realtà è un esercizio di libertà, secondo me. Bella questa esercizio cosa di libertà. Senti, ma ti è capitato per esempio di dire, beh, sai, devo portare a spasso il cane, no? Tu quanto tempo ci dedichi alle passeggiate con Rufus? Facciamo 3 passeggiate quotidiane, sì. Ok, quindi in totale più o meno quanto dureranno? È un'oretta e mezza, vedi. Luna. Sì, cioè la prima è molto breve, quelle successive invece prendiamo. Cioè, vuol dire che tu ci dedichi del tempo e tu dici un esercizio di libertà. Io qualche giorno fa mi sono fermato a parlare con il papà di un'amichetta di mia figlia, no? Che ha un cane che spacca tutto, anche quello alimentato ad energia nucleare, e gli dico: guarda che te questo cane qui, perché sia un pochino più tranquillo, devi farlo passeggiare 1.5-2 ore al giorno, no? E lui ha detto, certo, almeno, certo. Mi sa che allora non ce la si fa, allora perché l'ha preso? E vabbè, ma non è soltanto quello, perché una volta pensa chissà quanto possa essere difficile in genere con i miei clienti, poi si va a trovare sempre lo spazio, in genere devi risicare tra la TV e qualche altra, certo, cosa, no? E quindi ti ha cambiato la vita questa cosa? Sì, mi ha cambiato la vita, e in qualche modo anche dal punto di vista del lavoro, nel senso che prendermi il tempo necessario per stare col mio cane mi ha convinto a fare un salto, un cambio, i cambi sono sempre difficilissimi, soprattutto sul lavoro, di abitudini e di modalità lavorative. Per cui io in questi ultimi 3 anni ho iniziato gradualmente, ad esempio, a lavorare solo online. Ah sì? Sì. Che risposte hai avuto dal blog, per esempio, la gente che vede che tu organizzi questo viaggio con Rufus? Che... Un sacco di richieste di partecipare al viaggio. Certo. Certo. Gentilmente declinate, perché evidentemente ha senso. E comunque tantissima curiosità, e ho scoperto che tante persone desiderano un'esperienza di questo tipo. Credo che verrà anche molto seguito. Quindi perché tu farai un diario quotidiano? Io farò un diario quotidiano, sia dal punto di vista più tecnico, appunto legato al percorso dog friendly eccetera, e sia dal punto di vista proprio di vita, di esperienza, ecco. Possiamo ricordare l'indirizzo del blog? Sì, adesso è su un blog gratuito, ma poi passerà su uno un pochettino più adatto anche a reggere un certo traffico, ed è in viaggio con Rufus, www.wordpress.com. Ok, però se uno va su Google già adesso e mette in viaggio con Rufus, lo trova subito. Su Facebook. Che... Senti, in questa organizzazione del viaggio, tu mi parlavi di strutture, alberghiere, no, per riuscire a organizzare l'itinerario, ma secondo te c'è un sito migliore degli altri, visto tutta questa esperienza che ti stai facendo, per trovare strutture che accettino cani? Guarda, in realtà esistono molti siti che hanno fatto una sorta di copia e incolla, ho notato, quindi e questo mi ha convinto anche appunto ad andare a verificare innanzitutto se queste strutture esistono tutte, se sono veramente come vengono presentate. Faremo anche questo, nel senso che uno degli obiettivi vai a verificare... è tracciare un percorso aggiornato. Bello. Non esistono siti, almeno non ne ho trovati, migliori di altri, ecco, c'è una sorta di copia e incolla. Senti Arnaldo, allora io e Rosita ti facciamo i nostri complimenti per l'iniziativa ti coraggiosa e decisamente singolare, come abbiamo già capito sta ispirando tante altre persone a fare la stessa cosa, io me lo auguro, magari un giorno dopo che l'avete fatta voi da soli la si rifà anche con altra gente, tutti quanti assieme. Volentierissimo e grazie mille ragazzi, buon lavoro. Grazie a te, grazie, e a Rufus. Buona Pasqua anche a voi. Ciao Arnaldo De Pietri. Ciao. A presto. Ciao. Bello. Into the Wild. Questo qui sai chi è lui? Quello che ha fatto anche Hard Sun, come il si chiama? Il cantante, chi è lui? Me lo dici sempre. Il frontman di quale gruppo? Il frontman. Pearl Jam, il frontman di Pearl Jam. Perché sono una rocker, capisci? Yeah. Harley Davidson, gite in tutta la Toscana, Harley Umbrian, Harley Davidson, anche in Italia. Fa piacere. Ma senti, quando Arnaldo parlava di mollare gli ormeggi, sì. Guarda, se va avanti così, mollo anch'io l'ormeggio. Dai, così ti smetti. Diciamo qualche cosa che conta. Dai. Guarda che sono stufa. Guarda che non ne posso più, non ne posso più. Noi dobbiamo fare in viaggio con tutta la baracca. Viaggio con tutta la baracca. Beh sì, perché ci abbiamo dietro tre cani, uno disabile. Di cui uno disabile. Di cui uno disabile. Oppure volevi dire che il disabile è verso io. Leggimi qualche altra cosa da questo bel libro. Amore. Preoccuparsi non toglie mai al domani il suo dispiacere, priva soltanto l'oggi della sua gioia. Questo lo dovrei leggere a mia cugina Alessandra. Sì. Sì. Leggo anche un non affliggerti, testa alta, petto in fuori. No, però io volevo leggervi una cosa veramente molto bella che si intitola Lascia andare. I cani scelgono di perdonare per il bene del branco. Non prendono le cose sul personale e non nutrono mai rancore. Con i loro amici, canini o umani che siano, risolvono velocemente i contrasti e passano oltre, lasciando perdere i sentimenti negativi per concentrarsi su cose più felici e più importanti. E quando sono loro ad aver bisogno di perdono, vorrebbero che noi seguissimo il loro esempio. Sì, tra l'altro sai che c'è anche c'è una cosa che servono gli etologi che si chiama riconciliazione post-conflitto. Cioè, dopo che il cane si è arrabbiato con te per qualcosa che tu hai fatto, metti il bambino che gli tira la coda, l'adulto che lo rimprova, eccetera, viene a cercarti, cerca di leccarti come per ripristinare il legame affettivo, che è basilare per la sopravvivenza di un branco, ma è anche un grande insegnamento per noi esseri umani. Ecco, poi, cioè, ci insegnano talmente tanto che come fai a dire che insomma noi siamo migliori della la prospettiva del cane, ma la prospettiva del cane. Allora tra poco saremo con Igor Sibaldi, grande filologo, filosofo. Ha un sacco di cose da insegnarci. Parleremo del vero significato della Pasqua e delle correlazioni che questa cosa ha con gli animali. A tra poco. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in Digital Radio. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Signore e signori, è con noi Igor Sibaldi, la rockstar. Allora, complimenti spropositati. Ma figurati, no, ma, no, guarda, no. Allora, sul web è una celebrità Igor Sibaldi, sì. È scrittore, ha scritto un sacco di libri, molto interessanti le sue conferenze, fa conferenze ogni giorno e in giro, insomma. Filologo. A insegnare, è filologo, cioè studia il significato delle parole nelle diverse lingue. Questo è detto in parole povere, magari lui ce lo spiega ancora meglio. È filosofo. E da oggi anche rockstar. E da oggi anche rockstar, esattamente. No, perché per me sei una rockstar, Igor, e ho scoperto dopo che abbiamo fatto l'evento scorso, il 12 marzo, assieme sulla genitorialità che avete tenuto tu e Angelo, le mie amiche che hanno visto le foto sui social che io ero con te e Angelo hanno detto: no, Igor Sibaldi, ma porca miseria, non c'ero, non no, sono scusa, solo amiche? Solo sì. Femmine? Mi sembra di sì. Nessun maschio. No, anche maschi, però la maggioranza erano femmine. Bene. Oggi deve essere proprio una buona giornata. Per di complimenti, non me l'aspettavo. Poi oggi è la giornata di Pasqua, quindi si risorge. Quindi allora, Igor è sorprendente. No? Questo programma si chiama Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane e ovviamente anche degli altri animali. È la puntata di Pasqua e noi vogliamo chiedere a Igor cosa ne pensano gli animali, quindi dal loro punto di vista, la loro prospettiva della Pasqua. Ma io ho chiesto, infatti ne abbiamo parlato con Wellington tempo fa, Wellington è il mio gatto. Ecco, quindi vedi, perché Igor viene qui preparato, cioè non è che lui dice, adesso mi no, lui prima ne parla col suo gatto, con Wellington, sì. E poi ci dice, sentiamo. Perché mi avete detto, l'ho chiesto direttamente a lui, sì. per le nostre solite vie. All'inizio ho detto che a lui la radio, insomma, si la sente, però lui ha altri mezzi più avanzati, più progrediti. Più sì, più certo, immagino. Con gli esseri viventi. Poi è stato spiegare bene cos'è la Pasqua. E dunque, allora, la Pasqua cristiana, si intende la Pasqua, sì, cristiana, c'è la Pasqua ebraica e c'è la Pasqua cristiana. Allora, la Pasqua cristiana è la festa della morte, no? Perché è un momento molto tragico, cioè venerdì è una gran brutta giornata, no? Sì. Sì, e poi c'è sabato che non si capisce bene cosa succede, sì. E poi c'è la domenica, che c'è una promessa, no? Vedrai che poi le cose si mettono meglio, sì. No? Però poi dopo che sarebbe la risurrezione. Sì. La risurrezione. Ecco, da un punto di vista animale, naturalmente l'animale preferirebbe molto di più il Natale, perché è una festa della nascita, allora si rallegra moltissimo. L'idea di dover prima sacrificarsi. L'idea di dover fare una gran fatica, eccetera, eccetera, all'animale non è che faccia tanto piacere. E soprattutto questa storia qua della resurrezione è difficilissima da spiegargliela, perché l'animale dice: d'accordo, però cosa vuol dire che poi risorge? Poi risorge vuol dire che ritorna come era prima, quindi praticamente a cosa è servito morire se poi ritorna a quello di prima? Ecco, questo me l'ha chiesto, io non ho saputo cosa rispondergli. Cioè, è come al solito quando si parla con Wellington, non si sa mai cosa rispondere. Beh, certo, perché ti lascia senza parole. Intanto che ci pensavo, perché poi ci ho pensato, un po' di risposte che sono venute in mente. Intanto che ci pensavo, mi è venuto in mente, guarda, c'è anche la Pasqua ebraica. E dice: com'è la Pasqua ebraica? La Pasqua ebraica è il passaggio del Mar Rosso. Dice: ma sono entrati nell'acqua? Cosa che un gatto darebbe fastidio. Dico: no. E gli ebrei odiano l'acqua nelle sacre scritture, come tu è noto, no? Sì, perché gli ebrei con l'acqua sono gente del deserto, per cui l'acqua gli fa un po' orrore. Si pensi, per esempio, al modo di distruggere il mondo è attraverso il diluvio. Certo. Sì, certo. Ah, certo, è vero. E naturalmente quando entrano nel Mar Rosso gli ebrei non si bagnano neanche un po'. Eh certo. E come ci entrano? Mare... Eh beh, come? Il mare si divide. Ah, è vero, che scema, con Mosè, sì. Mi sono distratta un attimo. Mosè e l'angelo fanno questo lavoro qua, il mare si divide e gli ebrei passano all'asciutto. Invece, per fare orrore agli egiziani, per fargli un dispetto terribile, naturalmente li fanno affogare, perché gli ebrei veramente l'acqua è un problema grosso. Si vede anche nei Vangeli, l'autolesionista, che sarebbe Giovanni Battista, sta nell'acqua fino alla vita. Gesù invece, quando salta di acqua, ci cammina sopra. Sì, certo, ci gli dà fastidio anche a lui. Quando vede dell'acqua la trasforma in vino. Cioè ce l'hanno con l'acqua. Insomma, ma che strano modo di rivedere tutto questo rapporto con l'acqua. Tu dici che lui ci ha camminato l'acqua sopra perché non ci voleva, non si voleva immergere, ovviamente. Sì, secondo Wellington questo qui va benissimo, perché l'acqua è l'inesistenza. Cioè una persona entra nell'acqua, cessa di esistere. Inesistenza. Allora, sì, ti dissolvi, no? Il diluvio è il momento in cui tutte le tue, diciamo, le molecole del tuo essere si dissolvono, e sarebbe l'immagine di inesistenza l'acqua, no? E naturalmente i gatti è noto che odiano l'acqua da questo punto di vista puramente mistico, essendo animali molto metafisici, molto mistici, loro vedono l'acqua una dissoluzione. Quindi dice, bella questa idea della Pasqua ebraica, molto bella, perché vuol dire che una persona attraversa una parte della sua vita, ci passa proprio oltre, non se ne lascia condizionare, un momento brutto della vita, non se ne lascia condizionare, arriva dall'altra parte asciutto e prosegue libero. Invece gli egiziani, che sono i cattivi, ma non è che siano cattivi gli egiziani, sono solo dei servi, sono soldati reggimentati, obbedienti al faraone. Invece questi qui, quando entrano nella difficoltà, si dissolvono. Per cui festa di Pasqua ebraica, passaggio, è tu puoi passare attraverso le vicissitudini dure della vita, ne vieni fuori, ne vieni fuori senza essertene lasciato toccare. E se vogliamo essere un po' più psicologici, si può dire una parte autentica di te passa attraverso i guai e non se ne fa toccare, la parte finta, servile, suddita di te passa attraverso i guai e per fortuna viene eliminata dall'acqua. Per gli egiziani tutti noi siamo dentro un po' ebrei, un po' egiziani. Ecco, ecco questa idea qua che gli egiziani sono obbedienti, gli ebrei no, è interessante perché in ebraico antico, dove sono importanti le radici delle parole, molto molto importanti per capire, la parola ebreo vuol dire trasgressore. Nel senso, sì, trasgressore, nel senso proprio stretto. Cioè trasgressore vuol dire quello che va oltre un certo confine. Il confine è il mare, il confine è il Mar Rosso. Per cui Pasqua che cos'è secondo questa cosa antica? Pasqua è io vado oltre il confine del consentito. Al di qua della Pasqua mi tengono suddito di tutta una serie di obbedienze, superstizioni, convenienze, doveri, tutte queste cose qui. Ecco, io ne ho piene le scatole, sono ebreo, passo. E quando passo io così deciso, i guai si diradano, perché in qualche modo la mia specie, la mia natura superiore vuole che io osi. E la Pasqua sarebbe il giorno dell'osare. Ah sì, sì. Vedi che, però, che metafora straordinaria. È Wellington. È Wellington. Cioè, è il gatto di Igor che ci ha insegnato questo. Che fortuna che hai ad avere Wellington. Ma non sto scherzando, cioè è una forma di meditazione che consiglio a chiunque, se, ma penso anche coi cani, solo che coi cani non conoscono la lingua bene. Però uno che ha un animale in casa, ma fosse anche un topo praticamente, capita, se in qualche modo riesce a mettersi d'accordo, in sintonia, e a vedere le cose dal punto di vista del topo o del gatto o del delfino o della rondine, nel passaggio, ha dei punti di vista eccezionali, veramente eccezionali, perché salta fuori dal mondo consueto e vede tutto un po' dall'esterno, da un mondo che non ha le tasse, non ha il divorzio, non ha la separazione, gli alimenti. Sì, il mondo della prospettiva dell'altro. Sì, il mondo della prospettiva dell'altro assoluto proprio. Non per niente, cioè se uno ci pensa, gli antichi avevano questa idea evolutiva, no? Che gli animali è così così, gli uomini abbastanza messi bene, però oltre l'uomo la fase evolutiva successiva sono gli angeli. E gli angeli sono ibridi animali, perché sono metà uomini e metà volatili, no? Certo. Cioè, è curioso che la parte più alta di noi, cioè quello tutti noi secondo una certa idea studiamo, è l'insieme di dell'animale con l'essere umano. Sì, e poi su consiglio di Angelo ho cominciato a leggere anche un po' di roba di neuropsicologia eccetera, e vedo che con grande emozione vedo che una delle tendenze nuove della neuropsicologia è vedere, imparare dagli animali, anche dagli animali, come funziona il cervello. Per cui meravigliosa questa cosa qua. C'era arrivato già Francesco D'Assisi. Sì. Però è bello che ci arrivi. Ma sai, noi occidentali oggi abbiamo bisogno che qualcuno dall'esterno ci dica: guarda, è vero ed è così. Sì. Cioè, non siamo capaci di basarci sulla nostra stessa esperienza, no? E quindi noi oggi diciamo: ma la scienza che dice? Perché se lo dice la scienza è vero, se no ma c'è bisogno di una guida, c'è bisogno di una persona che ti sappia raccontare le cose, che te le sappia spiegare, che ti ci accompagni, c'è bisogno di qualcuno che ti, c'è qualcuno che traccia la via, e c'è bisogno anche di chi ti accompagna per la stessa via. Senti, Wellington. Ecco, io ti devo fare qualche altra domanda, però siccome ci sono le informazioni sul traffico le lascerei andare e ti riascolto tra poco. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci ancora. Tutti e due. Siamo al telefono con Igor Sibaldi e stavamo parlando con lui appunto del significato della Pasqua ebraica, però c'era anche da approfondire un po' di più il significato della Pasqua cristiana, no Igor? Sì, perché è rimasto in sospeso. È rimasto in sospeso perché dicevo: cosa gli rispondo io adesso a questo gatto? Ci ho pensato, e c'è una cosa nel Vangelo che è molto interessante. Allora, la Pasqua cristiana sarebbe il modo appena trovo l'occasione lo spiego anche a Wellington. Allora, c'è l'idea di trauma, no? C'è l'idea di trauma. Se uno prova a leggere il Vangelo, che è una bella lettura, poi tutti sanno che se uno legge la Bibbia, qualsiasi parte della Bibbia non prende l'influenza, per cui va benissimo leggerla. C'è un episodio della giovinezza di Gesù che è molto interessante. Quando lui è ragazzino, a 12 anni, si perde a Gerusalemme, no? Sì. E sta 3 giorni in giro. Sì. Non si sa cosa ha fatto, Poi i genitori lo trovano, che lui è all'università. Sì, esatto, a insegnare ai dotti. Sì. No, a fare domande intelligenti. Ah, a fare domande. E tutti i dotti dicono: ah, che bravo sto ragazzino Galileo, che come noi possiamo, non so, un ragazzino bergamasco praticamente, no? Che senti che ha l'accento strano, però senti che belle domande che fa. Entra la mamma, entra il papà e gli fanno una scenata, gli dicono: cosa fai qua? Ma guarda che vergogna. Fanno i genitori. Fanno i genitori, lo portano via. Lui prova a rispondere: guarda, quello lì non è neanche mio padre, devo occuparmi di quello che è il vero padre, che è Dio. E niente, se la passa un brutto momento, sì. Un trauma forte, sì. Trauma fortissimo. 3 giorni a 12 anni lui rimane in giro a Gerusalemme. Dopodiché lui comincia, si mette al lavoro, per fare la sua carriera pubblica, fa i suoi discorsi e tutto il resto, e alla fine ripete il trauma. Cioè va davanti a questi giudici che sono tutti gli stessi professoroni di allora, sì. Si fa trattare male da loro, 3 giorni resta via, supera questo trauma dell'adolescenza, viene fuori nuovo, risorge e dice: sentite, a questo punto io me ne vado, e se ne va. Cioè, e va dove? E non si sa, va verso una vita diversa, verso una dimensione diversa. In questo senso la Pasqua è un bellissimo simbolo, diventa bella anche la Pasqua cristiana, molto bella, perché vuol dire: guarda che qualunque, sempre la solita storia del mare, guarda che qualunque cosa ti abbia spezzato nella vita, se tu la affronti da capo, Se tu l'affronti da capo con coraggio, senza paura, ne vieni fuori rinato, risorto, diverso, te ne liberi. È alla base della nostra psicologia ed era una cosa già nota anticamente. Se uno ritrova i suoi traumi e li rivive, ce la fa. Certo. Sarebbe un'interpretazione psicologica della Pasqua, però psicologico secondo me non è mica una brutta parola, non è una brutta parola. Psicologia vuol dire capire come funziona l'anima. Pensa, quindi, che uno pensa a capire psiche. Come funziona la mente. No, psiche è anima. Certo. Poi tra mente e anima, insomma, c'è la discussione ampia in questo periodo. Beh, fantastico. Per cui, anche la Pasqua sarebbe, io la vedo proprio come un invito, non tanto una celebrazione della morte, come è per tanti versi nel cristianesimo, però un pochino più in profondità il dire, guarda, ritorna sui traumi passati, ritornaci, affrontali, è primavera, hai tutte le forze della natura dalla tua parte, affrontali con coraggio, rivivili e superali. È certo. Fantastico. Che poi risorgerai a una vita migliore. Senti, qual è la differenza tra anima e spirito, già che ci siamo? Non lo sa nessuno questo qua, perché ultimamente è incredibile, non lo sa nessuno, neanche i vocabolari, è così semplice invece. Come? Sentiamo. Allora, e quindi tu la sai? non lo sa nessuno, tu la sai. Tranne me. Tranne te. È per quello non che io te lo chiedo. Adesso, prima la sapevano tutti. Allora, qualche millennio fa. Allora, anima praticamente, cioè sono due modi di indicare quello che c'è di autentico nell'uomo. Solo che anima è al passato, spirito è al futuro. No? Sapete che cioè, c'è la messa cristiana, no? La messa cristiana alla fine il prete dice la messa è finita, andate in pace, la pace sia con voi. E la gente risponde con il tuo spirito. Ecco, non gli dice e con l'anima, perché sarebbe come dire pace l'anima tua. Che il prete gli darebbe fastidio anche se ti sì, dice magari un po', infatti. Dice con il tuo spirito, perché praticamente quell'augurio lì finale vuol dire grazie per la messa, caro sacerdote, buon futuro, cioè datti da fare bene d'ora in avanti, vuol dire questo, no? Lo spirito. Praticamente anima è, cioè quella, l'anima innocente, l'anima che non ha ancora avuto determinate esperienze. Le macchie dei peccati sono sull'anima. Praticamente l'anima è la memoria, uno direbbe la memoria inconscia del proprio passato, no? Quello che io sono sempre stato finora. Spirito invece è quello che io posso diventare d'ora in avanti. Anima significa soffio di vita etimologicamente? Tutte e due sono legate, sono due termini ventosi, perché anima vuol dire animos, vento. E spiritus in latino, ma anche pneuma in greco, vuol dire vento leggero. Tutte e due vogliono dire vento. Vento perché praticamente vuol dire, l'immagine è bellissima. Allora, noi abbiamo due io, secondo questa idea. Uno che è corporeo, no? Che è alla destra, alla sinistra, l'alto, il basso, e distanza e tutto il resto. Poi c'è il cosiddetto io spirituale, che è molto più vasto, di una dimensione diversa, di una dimensionalità diversa da quello corporeo, e può essere paragonato al vento. Come il vento sta a un oggetto, così il tuo io superiore sta a te. Ecco, come il vento? Sì, praticamente tu cammini e c'è il vento. Sì. No? C'è il vento. Tu sei tu. Sì. Il vento, secondo questa immagine, sei sempre tu, però più grande. Ah. C'è una parte di te più grande che devi scoprire, quella lì, la parte spirituale, che sta a te come starebbe a te un grande vento che ti passa intorno mentre cammini. E siccome noi non ne abbiamo più cognizione, abbiamo creato un sacco di danni. Dalla depressione, che è proprio l'invito a riscoprirla, etica, moralità, insomma, no? Ho un'idea mia troppo. No, è il fatto è che quando le parole sono precise sono molto utili, quando diventano imprecise fanno un sacco di problemi, causano un sacco di problemi, perché uno parla di qualcosa non sa di cosa parla. Non sa di che cosa sta parlando. Mamma mia, chissà quanto come ti capita, cioè te praticamente tutto il mondo che parla chissà che cosa dice in realtà, non avendo la consapevolezza del significato vero di quella parola. C'è un disturbo nostro, tipico degli uomini, che i gatti non hanno, che il senso di colpa, no? Che è una roba che salta fuori in tutti i momenti, specialmente quando uno si sente un po' ignorante sotto sotto. Allora generalmente le parole che uno usa e che non sa cosa vogliono dire ti fanno sentire in colpa, purtroppo, per cui 10 anni ma non sai cosa vuol dire, già ti si abbassa l'umore. Senti Igor, noi dobbiamo, allora noi adesso siamo in chiusura, no, di questa puntata, quindi ti dobbiamo richiamare, anche perché io ti chiederò la prossima volta come fai a parlare col tuo gatto, cioè se puoi dare dei suggerimenti. È semplicissimo? Sì, sì, sì. Ce la fai in un minuto o ti richiamiamo un'altra volta? Allora, ci vogliono tre condizioni. Bisogna essere disponibili, sì, pronti a dare e con domande intelligenti. Ah, ecco, disponibili. Disponibili, cioè aperti, aperti, sì, aperti. Sì. Pronti a dare. Bisogna immaginare, adesso gli faccio un regalo. Uh-huh. Adesso faccio un regalo. Poi, aperto, ammetto l'idea che si possa parlare con gli animali. Prima condizione. Sì. Seconda cosa, adesso gli faccio un regalo, gli do dei croccantini. Stabilisco questa sensazione affettiva. Sì. Terza cosa, siccome i gatti è tutto no perdi tempo, cioè non perdono tempo. Cioè, sì, fammi una domanda intelligente. Certo. Fammi una domanda intelligente, non chiedermi che ore sono. Benissimo, allora, buona Pasqua a tutti. Grazie Igor, buona Sibaldi. Pasqua anche a te, a Silvia. Buona Pasqua. Buona Pasqua, buona Pasqua. Un abbraccio grande. Grazie, grazie. E per chi vuole scriverci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Buona Pasqua a tutti da Angelo Vaira e Rosita Celentano. Ciao. Ciao.